mia persa nel vento dimentico i miei gesti di una bugia che non avrò. Dai, fermati, puoi far finta di andare avanti senza che gli altri si accorgano della tua vertigine. Non mi ascolterai, vieni presto, non tornare mai, non promettere che resterai se non sai neanche quel che vuoi. Non ti amassi, ti perdonerei per la vita che non tornerà ed il segno che ci resta. Già da un po' che le foglie tornano verdi, cado giù come il frutto troppo maturo che scarterà. Fino a dissolversi in polvere, così ogni giorno scrivo di te parole che ti portino via dalla testa. Amore mio, voglio illudermi.